AVS Media Demo. AVS Media Demo. Guardarmi a uno specchio che ti offre nudo al mondo senza inganni, e con quella frustrazione che oltre me conosce Dio, guardo dentro quello specchio, ora sono io. Non è mai stato facile donarti i miei giorni, a volte troppo bui, ancora di più sconstanti, con l'amara sensazione che uccidevo il giorno tuo, come un ladro lo rubavo e lo rendevo mio. Non è mai stato facile sentirmi dentro il chiasso che il silenzio fa quando vuoi ascoltarti, quando quel minuto si trasforma in una vita intera, proprio lì non è mai stato facile. E allora AVS Media Demo. Io salgo in questo treno e senza scuse vado via, e porterò con me due sacchi di malinconia per scrivere del mondo. Io userò la penna senza troppa nostalgia, e cambierò colori e il tempo della vita mia, così sarà più facile. Così sarà più facile. AVS Media Demo. Non è mai stato facile accettare la fatica di chi ha lottato per farci mangiare, mentre i padroni del potere stavano lì a guardare con le mani senza un grado. Non è mai stato facile fermarsi quando c'è il bicchiere mezzo vuoto e abbandonarti a quell'ora di piacere dove pensi ciò che pensi, con la voglia matta di AVS Media troppi Demo. Pochi sensi. Allora via, io salgo in questo treno e senza scuse vado via, e porterò con me due sacchi di malinconia per scrivere del mondo. AVS Media Demo. Via, io userò la penna senza troppa nostalgia, e cambierò colori e il tempo della vita mia, così sarà più facile. AVS Media Demo. Non è mai stato facile. Non è mai stato facile. Non è mai stato facile. Non è mai stato facile. AVS Media Demo.